L'aggiornamento dell'operazione Bialystok, quello ultimo, scusate, riparto. C'è stata la requisitoria il 5 maggio, dove l'accusa ha richiesto 7 anni per 3 compagni, per una compagna 5 anni, per un compagno 8 anni e mezzo e per un altro compagno 7 anni e mezzo. Oltre a queste richieste di condanna ci sono state anche le richieste di risarcimento da parte dello Stato, dove più o meno richiedono 250.000 euro. Questa operazione è stata fatta nel giugno del 2020, un'operazione che è andata, diciamo, era basata su un attacco che c'è stato a una caserma di guardie, poi hanno continuato a indagare, a pedinare persone e sono riusciti anche a mettere in mezzo, a condannare, diciamo, una campagna di solidarietà per gli anarchici e le anarchiche prigioniere, dove appunto è stata messa sotto attacco proprio la pratica di solidarietà. È stato messo in campo un mandato di arresto europeo, perché di queste 7 persone 2 si trovavano all'estero, e quindi c'è stata questa collaborazione fra polizie europee, che era, diciamo, una delle, non delle prime volte, ma negli ultimi anni, negli anni recenti, è stata un attimo una cosa abbastanza singolare, dato che per un'operazione sono riusciti ad arrivare in Francia e anche in Spagna. Chiaramente con questa collaborazione fra polizie c'è stata, diciamo, un'ulteriore prova da parte dello Stato, un po' per consolidare questa pratica del mandato d'arresto europeo, dove appunto, anche se sei in un altro paese, per loro poi diviene facile venirti a prendere. Nonostante, ad esempio, c'è stato un tentativo di opporsi a questo mandato d'arresto europeo, opporsi all'estradizione, ma chiaramente quando poi c'è di mezzo il 270 bis, le corti d'appello, quella di Parigi in questo caso, non ha praticamente voluto saperne nulla, ecco, quindi la estradizione praticamente poi è stata accettata. Questa operazione, ripeto, è appunto, va a prendere un po', a colpire diverse pratiche che sono pratiche dei compagni e delle compagne, quale la solidarietà per i prigionieri, ma anche gli attacchi e le azioni dirette contro Stato e capitale e i suoi simboli. E su quello su cui mi vorrei un po' più soffermare io è il fattore di come appunto hanno messo in campo questo apparato per contrastare tantissimo i presidi, mettendo presidi, manifestazioni, scritte in giro per le città, assemblee, riunioni, concerti, per andare proprio a far vedere che come queste cose qua, che chi sostiene i compagni che sono accusati di terrorismo o i compagni anarchici in generale, altrettanto lui si deve poi subire una repressione tale, perché se tu sostieni un terrorista, a quanto dicono loro, anche tu sei un terrorista. Da qua poi chiaramente si potrebbe aprire un grande grosso dibattito su tale robe, che forse adesso non è il caso di fare, non lo so, poi parliamo neanche insieme, non mi va di fare una presentazione, preferisco un po' più stimolare un dibattito anche su varie questioni e varie tematiche. Per quanto riguarda invece Scriptamanent, che è un'operazione che magari tutti già conoscete, comunque è iniziata a settembre del 2016 con l'arresto di 7 persone e che ha preso di mira, diciamo, la FIFRI, quindi la Federazione Anarchica Informale, e raggiungendo con mandati di arresto 2 compagni già in carcere per la gambizzazione di Adinolfi, e il CEO di Ansaldo Nucleare, più vari altri compagni, accusandoli di una serie di azioni sempre appunto a firma FAI o FAI Free, e che risalgono al primo decennio degli anni 2000, 2000 principalmente, e questo processo ha già visto la fine del primo e del secondo grado, con condanne per alcuni compagni molto alte. Alfredo ha ricevuto 20 anni, è stato condannato a 20 anni, Anna è stata condannata a 17 anni, e mentre poi in primo grado era stato condannato a 9 anni un altro compagno e a 5 altri due compagni per la partecipazione all'associazione sovversiva, e mentre in secondo grado la pena a 9 anni per il compagno è stata ridotta a 1 anno e mezzo, permettendo a questo compagno, che era appunto Nicola, l'altro compagno accusato della gambizzazione di Adinolfi, di sfruttare il continuato per uscire, e fondamentalmente assolvendo gli altri due compagni che erano stati condannati a 5 anni, che sono stati scarcerati perché avevano fatto oltre 4 anni di pena cautelare, di carcerazione cautelare. E invece in secondo grado sono state combinate tutta una serie di condanne per istigazione a delinquere, che è questo reato che ultimamente va molto e purtroppo funziona, a quanto pare, almeno in alcuni casi. E il 25 maggio era prevista la Cassazione, che effettivamente si è svolta, ma per l'impossibilità di uno degli avvocati della difesa di partecipare, è stato, diciamo, ha parlato soltanto il procuratore generale e uno degli avvocati della difesa, mentre gli altri avvocati della difesa parleranno invece il 27 giugno, e il giorno in cui ci si aspetta anche la sentenza. Per quel che riguarda un'altra cosa che ho dimenticato, che è importante, è che i due compagni Alfredo e Anna sono stati condannati, tra le varie azioni, per due azioni a Fossano e Crocetta a Torino, che in primo grado sono stati entrambi riconosciuti come strage, nonostante non ci siano stati feriti. In Italia il semplice fatto di tentare, di, almeno secondo lo Stato, di ferire un numero imprecisato di persone costituisce strage, anche se non ci sono neanche dei feriti. E inizialmente il PM aveva richiesto strage politica, diciamo, che prevede l'ergastolo, e il tribunale l'ha riconvertita in strage semplice. In secondo grado Crocetta è stato invece riqualificato come 280, quindi attentato, mentre Fossano è rimasto strage semplice. E per l'appunto il procuratore generale ha chiesto il 25 in Cassazione il rigetto di tutti gli appelli, compresi quelli del PM, ma ha richiesto invece la riqualificazione delle stragi, anzi di tutte e due le azioni, in strage politica, però, quindi fondamentalmente chiedendo l'ergastolo per i due compagni. Che altro dire? Una ventina di giorni prima del giorno previsto per la sentenza, quindi il 5 maggio, Alfredo, compagno che era a Terni in alta sicurezza 2, ha ricevuto la notifica di trasferimento in 41 bis, dove attualmente si trova. Abbiamo scoperto che è stato trasferito a Sassari, e chiaramente questo è un precedente che getta delle ombre piuttosto cupe su tutti noi e un pochino su tutti coloro che nutrono sentimenti di attacco e di rivolta nei confronti del sistema. E, diciamo che Alfredo aveva già ventilato in alcuni comunicati, o comunque parlando con altri compagni per via epistolare, il fatto che si aspettasse il possibile trasferimento nel 41 bis. E chiaramente non può essere ignorato il fatto che il suo trasferimento nel 41 bis viene dopo una serie di attacchi da parte dell'apparato repressivo ai mezzi di comunicazione e di stampa anarchici. In particolare lo stesso Scriptamanent prendeva di mira il giornale Croce Nera, poi più recentemente, quindi a cui Alfredo partecipava con degli iscritti, l'operazione Sibilla più recente, anche lì visto notificare ad Alfredo un mandato di arresto in carcere, l'ennesimo, e durante l'operazione Sibilla sono state prese di mira alcune riviste, alcuni giornali, ed è stata le forze dell'ordine hanno sequestrato tutte le copie che sono riuscite a trovare di Quale Internazionale, un libro che praticamente era un'intervista di Alfredo, edito da Montebove. E nonostante questo Alfredo ha sempre continuato a parlare, a dialogare, essere partecipe del dibattito, e evidentemente il DAP o chi per loro ha deciso che era il momento di chiudergli la bocca in maniera un pochino più decisa, e il ministro Cartabia ha effettivamente ratificato questa decisione spedendolo in 41 bis, di cui magari qualcuno più tardi ci darà una descrizione un po' più dettagliata. Chiaramente questo è un precedente grave, perché come spesso accade si parte da casi eccezionali per poi pian piano utilizzare con sempre maggiore disinvoltura determinate misure, e ovviamente non è fantascienza pensare che ci sono altri compagni che potrebbero in futuro, se le accuse reggessero nei loro confronti, fare la stessa fine, soprattutto se rifiutassero di chiudere la bocca e di rinchiudersi nel silenzio a marcire in carcere. Ci sarebbe veramente tanto da dire, però non vorrei parlare troppo. Sì. Già che siamo in tema, appunto, posso ancora aggiungere che appunto con Alfredo è stato anche definito l'ideologo all'interno dell'operazione Bialystok. Chiaramente questa posizione non è stata poi oggetto di misura cautelare in sede di arresto, però è stata, diciamo, una posizione che hanno voluto accollargli a lui per definire che questo nuovo gruppo, che è stato definito dagli sbirri, no? Il gruppetto che operava per la solidarietà ai prigionieri, andava un po' a superare gli scazzi precedenti all'interno del movimento anarchico, e con la corrispondenza con i prigionieri, fra cui anche Alfredo, hanno voluto giocare un po' con questa roba qua, dicendo: ecco, guarda, questi nuovi ragazzi vanno, fanno i presidi, fanno questo, fanno quell'altro, si sentono e si scrivono con Alfredo, hanno una base logistica che è un posto occupato che è a Roma e quant'altro, e questo appunto è servito a dire che Alfredo era la mente di questo gruppo. Hanno messo anche dei testi che erano testi chiaramente di analisi e di dibattito che si sviluppavano anche all'interno della giornata, della nostra stampa, della stampa dei compagni e delle compagne. Questo mi andava anche di sottolinearlo per ragionare e riflettere insieme di come anche una semplice corrispondenza con un prigioniero o una prigioniera possa poi diventare di fatto un problema stesso per un compagno che già sta dentro o per chi scrive a questo compagno. Sì, serve appunto probabilmente anche a fare terra bruciata intorno a questi compagni che continuano a restare in contatto col movimento fuori, perché tu gli scrivi e poi quelle lettere te le ritrovi in tribunale con un'accusa di 270. Ovviamente mettere il nome di Alfredo dentro un'operazione per associazione per 270 bis serve anche a dare ai giudici, che chiaramente non hanno proprio contezza di quello che è il movimento anarchico, dare un pochino spessore e pesantezza alle loro accuse. L'ultima cosa che vorrei dire è che l'accusa del PM, diciamo che fino ad oggi il reato di 270 bis negli ultimi anni non è praticamente mai passato, e in questo caso ha retto fino al secondo grado, e ci sono, diciamo, ci sono forti timori che riesca a reggere anche in Cassazione. E questo sarebbe anche questo un precedente abbastanza grave per noi, insomma, non dal punto di vista della giurisprudenza, ma per quello che significa per i compagni organizzarsi. Dico una cosa velocemente perché c'è un aggiornamento. Sappiamo perché Alfredo è stato messo in 41 bis, o perlomeno le carte ci sono, le motivazioni, e sono legate proprio agli iscritti, perché effettivamente c'è il 41 bis è ideato proprio per interrompere i collegamenti con le organizzazioni di appartenenza. Su questo poi ci sarà da fare un ragionamento, magari lo facciamo in sede di discussione. Comunque il motivo per il quale Alfredo è stato messo in 41 bis è per gli suoi iscritti e per il fatto che manteneva che sono reputati, che istigano, hanno questa accusa qua, cioè di essere un'istigazione per gli altri compagni e le altre compagne fuori. E poi adesso c'è un'intervista a Flavio, l'avvocato di Alfredo, che dovrebbe andare in onda, essere andato in onda su Radio Blackout, e comunque fra un po' ci sarà il podcast, quindi lo potrete ascoltare, che dà proprio le spiegazioni, perché ovviamente le carte le ha solo lui. E niente, ed è per questo che il 27, quando ci sarà la sentenza in Cassazione, i compagni e le compagne sarde hanno indetto un presidio bancali, dove abbiamo pensato di andarci veramente il più possibile per farci vedere vicini, uniti, insieme, rompere questa modalità di considerare la galassia anarchica come divisa, e quindi insomma sarebbe importantissimo andarci. E l'altra idea è quella di arrivare ad Alghero, lo diciamo forte e chiaro proprio perché gli vogliamo proprio fare temere che in un periodo in cui in Sardegna ci sarà pieno di turisti, arrivare ad Alghero e fare così un giretto per la città distribuendo a più non posso tutti gli iscritti di Alfredo. E questa era l'idea che era venuta di minima, perché se è dentro per quello i suoi iscritti li distribuiamo tutti, li diamo a tutti quelli che incontriamo, per cui chiunque possa magari ne raccoglie, ce li portiamo con noi e cerchiamo di andare numerosi ad Alghero e a Bancali. Sì, un'altra cosa secondo me degna di nota dal punto di vista del processo Scriptamanent è che hanno giocato tantissimo sulle divisioni, ovvero tra le divisioni all'interno del movimento anarchico, dicendo che alcuni gruppi avevano scritto o detto delle cose, c'erano stati degli scazzi, dei dissidi per alcuni motivi, e in questo modo scritti di... non di dissociazione o presa di distanza, ma che comunque situazioni in cui magari non era stata data solidarietà o cose di questo tipo, e tutto questo è servito per dare forza all'ipotesi accusativa, restringendo il campo a delle persone che invece avevano sempre mantenuto delle posizioni, e quindi a differenza di altri che invece le avevano cambiate. Non che cambiare posizione sia necessariamente un errore, però hanno giocato tantissimo sulle divisioni per restringere il campo e andare per esclusione, diciamo anche. E va bene, ora continuiamo con un po' di aggiornamenti riguardo i processi, e come detto proviamo a sentire un compagno in diretta telefonica che ci darà un po' di aggiornamenti sulla sentenza di Cassazione per la giornata di lotta del 15 di ottobre. Ciao, ci senti? Sì, abbastanza male. Abbastanza male, perfetto. Questo è una cosa ovvia. Fuori si sente? Ok, va bene, niente. Allora, come vuoi, ci puoi dare un po' di aggiornamenti sulla sentenza di Cassazione del 24 maggio che c'è stata a Roma. Sì, allora, 24 maggio c'è stata la Cassazione per il processo per i fatti del 15 ottobre a Roma. Cinque compagni sono stati condannati con la conferma delle pene abbastanza alte, quindi per tutti loro si apriranno le porte del carcere, anzi in realtà per due di loro sono entrati in carcere il giorno dopo la sentenza, Nadia e Richard, con una pena di 5 anni e 4 mesi. Gli altri compagni pene che vanno anche da 5 anni e 4 mesi fino ai 6 anni, pene molto pesanti per il reato di devastazione e saccheggio. Ricordiamo che in quella giornata c'è chi ha deciso di portare in strada, in piazza, la propria rabbia, no? Perché venivamo dal ventennio berlusconiano e ancora prima da tutti gli altri governi disastrosi che ci hanno ridotto alla fame, alle lacrime e al sangue. C'è chi ha deciso di alzare la testa e lottare, portare la rabbia in piazza, e c'è chi poi durante quel corteo ha deciso di essere collaborazionista. È stato grazie anche alla campagna mediatica dei giornali dei padroni che si è potuto arrivare a identificare alcuni compagni e compagne. Molti dei manifestanti presenti che si rifanno a sindacati, li chiamo compagni ma non sono compagni, che si rifanno a sindacati confederali o partitini che esistono nel nostro territorio, hanno deciso di collaborare dando tutto il materiale alla questura di Roma. Da lì poi ne è scaturita, come tutti sappiamo, una caccia all'uomo che ha portato all'arresto nell'immediatezza molti compagni e compagne e anche a distanza di diversi mesi di altri compagni. Io sono stato arrestato per devastazione e saccheggio nel troncone dei compagni di Teramo ed ero anche imputato per tentato omicidio in quest'ultimo troncone. Io poi in appello sono andato prescritto perché il mio reato, che era il reato di tentato omicidio, è stato derubricato in lesioni e quindi è andato prescritto, ma ho affrontato insieme ai compagni che adesso dovranno affrontare il carcere 11 anni di lungo processo. La cosa che fa rabbia è che si era detto tutti e tutte, un po' in tutta Italia, di non ripetere l'errore che era stato fatto a Genova riguardo alla solidarietà. All'inizio eravamo un bel movimento solidale, c'era un bel movimento solidale all'inizio del processo, però poi più passava il tempo, più la cosa andava scemando, e questa è stata la garanzia per i padroni di avere pene severe, perché loro hanno paura dei nostri numeri, ma non hanno paura della presenza, come ve lo posso spiegare, sono certi che il movimento non solidale più di tanto non può fare, perché c'è molta frammentazione, c'è molta divisione all'interno del nostro paese tra i vari movimenti, che non consente di avere un'efficacia controffensiva solidale per quanto riguarda la repressione. Questo insomma i padroni lo sanno, è in tranquillità, è un processo che doveva essere, a mio parere, ogni udienza una rivoluzione, una lotta dentro quel tribunale, è stata per i padroni una passeggiata, eccetto qualche momento, ma nulla di che. Quindi i nostri compagni affronteranno il carcere sapendo anche che per loro è stato fatto poco. I solidali presenti erano veramente pochi, ma nonostante tutto, anche essendo pochi, insomma, non sono stati lasciati soli tutti gli imputati e le imputate. C'è ancora tanto da fare, perché i compagni e le compagne sotto processo sono ancora tante, chi è in carcere, i nostri compagni e le nostre compagne sono ancora tanti in carcere, quindi bisogna iniziare a a fare un altro tipo di ragionamento tutti insieme, insomma, per non dico tirarli fuori dal carcere, però insomma iniziare a costruire qualcosa di nuovo e di importante che possa garantire a tutti i compagni e le compagne libertà d'azione lungo non solo il nostro paese, ma ovunque. Pronto, mi sentite? Sì, a posto. Vabbè, non so se qualcuno vuole fare domande al compagno già che è in diretta, perché poi dopo lo dobbiamo stoppare e chiudere. Va bene, allora noi ti ringraziamo per la disponibilità e niente, ci sentiamo prossimamente. Ok, grazie a tutte e tutte. Come sempre, io rinnovo sempre la mia solidarietà e complicità con chi alza la testa e con i compagni e le compagne in carcere e sotto processo. Un abbraccione a tutti. Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao. Vabbè, allora io dico due parole rispetto al 41 bis, qual è stata la sua nascita e il percorso che in qualche modo ha condotto alla sua strutturazione, poi appunto alla sua configurazione come adesso. Il 41 bis è stato un po' l'ultimo passo di un percorso di differenziazione, di premialità e anche differenziazione. Perché istituito nel 92 dopo i fatti di Capaci, alle sue origini nel 75, quando dopo le rivolte, le lotte dei prigionieri, dove vabbè nei fatti avevano anche ottenuto dei piccoli traguardi, un po' col sistema del bastone e la carota, era stato istituito l'articolo 90 e appunto prendeva il via quello che era tutto il discorso della differenziazione, che si è poi per la prima volta riconfermato nell'86 con la legge Gozzini, le leggi sul pentitismo e la dissociazione, ed è poi stato surclassato col 41 bis nel 92, nato sull'emergenza della questione mafia, perché vabbè, tutti questi regimi nascono poi in risposta a delle fantomatiche emergenze come appunto negli anni 70 la questione del terrorismo e poi la questione della mafia. Nel 2002 diviene poi definitivo, perché nel 92 era solo una misura temporanea. Nel 2009 tra l'altro cambia poi passa da un minimo di un anno a un massimo di due, ripetibile poi di anno in anno, fino a 4 anni, rinnovabile per due anni. Dal 41 bis nei fatti si esce se pentiti o morti, e soprattutto è un regime che non è più teso a un qualche controllo all'interno degli istituti penitenziari, perché poi l'articolo 90 era nato per quello, un po' per andare a sopprimere quelle che potevano essere le rivolte, e quindi veniva utilizzato nei fatti in caso di reali emergenze all'inizio, per poi invece diventare più strutturato. Il 41 bis invece nasce non tanto per ciò che può essere quello di un controllo sul comportamento all'interno delle carceri, ma proprio legato esclusivamente al reato che si è commesso o rispetto alla persona che si è. Attualmente in 41 bis in Italia sono detenute circa 750 persone, per la maggior parte uomini, ed è un regime completamente teso alla devastazione dell'individuo, ed è nei fatti una tortura che si configura quotidianamente con tante regole. Tanto di ciò che sappiamo sul 41 lo sappiamo grazie alla compagna di Alioce, che con le sue battaglie ha anche raccontato e dato voce a tutto ciò che succede lì dentro. La tortura si configura partendo da un isolamento quasi completo, la possibilità di non, l'impossibilità di accedere ai libri che si desiderano, ordinabili ad esempio esclusivamente tramite la biblioteca o internet, che poi cade anche in situazioni abbastanza demenziali. Ad un prigioniero in 41 è stato negato un libro della Cartabia, probabilmente perché nel titolo c'era un riferimento a questioni legate al carcere, nonostante appunto il libro fosse stato scritto dal loro capo, lo hanno negato, probabilmente per ignoranza, appunto per la demenzialità di queste regole. La tortura si configura nell'isolamento, nell'impossibilità di avere una socialità che ad esempio al carcere dell'Aquila è esclusivamente a due, persone unite dalle decisioni dell'amministrazione penitenziaria senza avere nulla in comune, e per 2 ore al giorno, 1 ora all'aria e 1 ora in una saletta dove è concesso esclusivamente un mazzo di carte. La tortura si configura nell'isolamento e in tutta questa serie di regole e sottoregole che sono lesive della dignità umana. In più, nato in qualche modo per isolare l'individuo da quella che poteva essere la sua organizzazione esterna, ad esempio quando hanno messo in 41 bis nel 2005 Morandi, la Lioce, Mezza Salma, già questo non era vero, perché era un'organizzazione che veniva considerata già sgominata da qualche anno, quindi nei fatti era una misura punitiva e afflittiva e basta. C'è un minimo di regolamentazione per andare poi a giustificare quella che nei fatti è una tortura. E tante altre informazioni di ciò che è il 41 bis e di quelle che sono state delle lotte individuali dei detenuti portati avanti, le abbiamo anche grazie ad Alessio Attanasio e a quelli che sono state tutte le sue battaglie contro le varie amministrazioni penitenziarie. E quello che poi è ciò che ha vissuto è stato girare quasi tutti i 41 bis d'Italia, dove appunto lui poi ha portato avanti quotidianamente delle sue lotte per andare ad ottenere questioni minime legate alla dignità individuale. E vabbè, se adesso si vuole fare un dibattito, si vuole aggiungere qualcosa, sicuramente adesso che anche Alfredo è in 41, questo sistema sta colpendo sempre di più e si sta avvicinando sempre di più a realtà che fino ad ora erano escluse, perché fino ad ora, anzi anche tuttora, continua a riguardare nella maggior parte chi viene accusato di associazione delinquere a stampo mafioso, però è evidente che adesso stia aprendo di più le sue porte, quindi è sicuramente interessante un dibattito per rinnovare quella che è una lotta contro il carcere tutto, contro il sistema differenziale e contro il 41. E sempre riguardo a Nadia, parlando con il mio avvocato che comunque è sempre dell'ambiente, diciamo, mi riferiva magari voi di Olga ne sapete qualcosa in più. Volevo chiedere se è vero che il fatto che il DAP in passato ha giustificato il fatto di mantenere i brigatisti in 41 bis, non tanto perché c'è un'associazione fuori dalla quale li devono tenere separati, ma perché addirittura motivando col fatto che altrimenti le persone che hanno fatto campagna per la liberazione, per lo spostamento di queste persone dal 41 bis ad altri regimi, penserebbero di aver ottenuto una vittoria. Non so se voi sapete niente a questo riguardo. No? No, questa cosa è molto curiosa, ma assolutamente verosimile. Quello che diceva anche la Calia, che sì, che una delle nelle ultime richieste di rinnovo, naturalmente sempre approvate, si diceva che siccome il terrorismo in Italia è un fenomeno carsico e siccome c'è la possibilità che il conflitto riprenda perché c'è una enorme crescita dell'impoverimento, e quindi lo sanno, lo vedono, e quindi è bene che loro tre rimangano in 41 bis. E quindi questo sì, che lo sapevo, cioè l'aveva scritto la Calia in un'intervista, questo, però che l'altra, sappiamo che per esempio i motivi per i quali veniva rinnovato anche alla Lioce era perché riceveva Soccorso Rosso e Olga. E la cassa, sì, aiutatemi perché magari non ricordo tutto. E quindi sì, queste ci sono, però una spiegazione così palese non è. D'altronde però Caselli anni fa, quando dall'Europa arrivò il richiamo all'Italia perché avevano lasciato morire dentro Provenzano, lui disse sì, ma il 41 bis è fatto per questo, cioè deve far male e dentro si può uscire, è fatto solo perché chi è dentro si penta, collabori, faccia male all'organizzazione, che l'organizzazione lo escluda e si crei, cioè quindi queste motivazioni le dicono anche piuttosto esplicitamente, quindi può darsi che ci stia quello che dicevi tu prima. Niente, io volevo un po' spostare l'attenzione di questa giornata anche su un qualcosa non nuovo, però dal mio punto di vista necessario e importante. Allora, tutto quello che abbiamo sentito oggi lo sentiamo da un bel po' di tempo. Io forse sono 20 anni che più o meno mi sono informato sulla questione carceraria, l'ho vissuto in prima persona, ho vissuto anche l'esperienza spagnola, quando addirittura solo a partecipare a un corteo prendevi la legge antiterrorista durante le lotte in Catalogna, Paesi Baschi e via dicendo. E la riflessione che ho sempre maturato è il fatto che l'aspetto repressivo e carcerario è lo strumento col quale lo Stato cerca di isolare i movimenti. E questa attenzione particolare ci porta troppo, troppo a parlare di questo. Perché fondamentale rimane l'obiettivo della lotta. Fondamentale rimane il nostro obiettivo. Compagni e compagne in carcere ce ne saranno sempre, continueranno, e noi continueremo sempre a sostenere e stare al fianco dei compagni e delle compagne nelle carceri. Siamo arrivati anche a un livello molto profondo di conoscenza a livello di leggi, di come si muovono, di come è articolato il 41 bis, la legge 270, associazione sovversiva, che ricordo che all'inizio degli anni 2000 fece molto scalpore con i famosi processi del Sud Ribelle, che poi finì in un vero e proprio teatro. Per cui, al di là del fatto che ci sia una solidarietà con chi purtroppo adesso è in carcere, io penso che fondamentale è sempre la questione politica. Noi conosciamo attraverso queste, tra virgolette, nozioni o queste conoscenze, qual è lo strumento col quale lo Stato cerca di metterci lo sgambetto. Per cui di conseguenza noi non dovremmo mai perdere di vista quello che è, questo ci sarà sempre. Sicuramente ci saranno delle metodologie molto più aggressive, perché basta darsi un'occhiata a livello internazionale per capire anche come vivono il carcere in altre condizioni. Io vengo dall'esperienza anche di una certa vicinanza con i compagni e le compagne anarchiche del Cile, dove le condanne minime partono dai 20-30 anni, c'è gente che c'è in carcere da una vita. Però quello che sostiene tutto questo è la continuità di una certa lotta, che pur conoscendo i rischi non si ferma e va oltre. Quando ci furono le esperienze politiche con i compagni catalani nel 2000, quando il famoso giudice, che poi è stato acclamato per aver fatto, per aver tentato di aver di un processo contro Pinochet in Cile, i compagni si facevano due domande. Io devo andare in un certo posto perché faccio questo, allora faccio altro. Alzare il livello della lotta è la cosa più fondamentale che si può fare in una fase repressiva attuale, come quella che viviamo nei giorni nostri. Perché va bene tutto quello che accade, però penso che c'è anche un grado di responsabilità che probabilmente nel mondo occidentale si è perso. Un grado di responsabilità che può portare ad alzare l'asticella politica in un senso un po' più particolare. Per cui, secondo me, uno dei ragionamenti, prendendo spunto dall'intervento del compagno che ha fatto prima telefonicamente, è quello di creare un qualcosa di nuovo o di creare qualcosa di intenso che è completamente diverso. Perché ne abbiamo provate tutte. Abbiamo provato in mille maniere di poter andare avanti e costruire un qualcosa. E non vorrei che si facesse l'errore che abbiamo fatto i compagni un po' più grandi dopo Genova, che per 20 anni siamo stati a dire che Genova ci ha resi in questa maniera, Genova ha distrutto, Genova ha fatto, quelli erano così, quelli erano colà. Noi dopo quel giorno abbiamo smesso in molte situazioni di continuare una lotta, soprattutto in un momento in cui il movimento era molto carismatico, portava tantissima gente in piazza ed era abbastanza presente su tante situazioni. Questo per dire che purtroppo la repressione è uno strumento che ci sarà sempre, aumenterà la sua intensità e deve essere direttamente proporzionale a quello che noi subiamo, la nostra risposta. Per cui, secondo me, dovremmo ragionare in quest'ottica, capire esattamente quello che è necessario fare ed è importante continuare a fare, al di là dei compagni e dei pezzi che perderemo per il percorso. Facevo questo paragone con il Cile perché, al di là delle brutte storie che accadono in Italia, di compagni morti e tutti, ci sono dei territori dove purtroppo noi non guardiamo tanto e che ci insegnano tanto nell'ambito della lotta. Gente che perde la vita quotidianamente. Per cui io penso che sia anche una questione di scelta, una questione di convinzione e di capire fino a che punto realmente questo movimento può proporre affinché la nostra lotta sia realmente solida e possa contrastare un sistema, perché dal mio punto di vista le carceri sono un problema satellitare al nostro reale problema, che è quello di andare contro un sistema che noi non riconosciamo e tantomeno riconoscere le pratiche giuridiche di alcuni avvocati o di come è scritta una legge, che io disprezzo completamente. A me non interessa proprio, cioè io non so. Cioè anche la posizione di alcuni compagni durante i processi, le cose, io non è merito mio entrare nell'ambito, però anche questa attitudine secondo me andrebbe un po' ragionata e penso che questa cosa qui ci sta un po' allontanando da quello che è il nostro obiettivo, che non deve essere mai dimenticato. Se abbiamo fatto una scelta politica nelle nostre vite è perché dobbiamo raggiungere un traguardo e non dobbiamo soffermarci nelle parentesi che rallentano il nostro processo.